Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Qualche giorno fa ho acquistato un biglietto aereo e, spuntando le varie voci che formano il prezzo finale, ho constatato che esiste ancora la voce Fuel Surcharge. Per un biglietto di andata e ritorno del costo di 200 euro, 48 euro sono per il balzello Fuel Surcharge. Ma com'è possibile che con il petrolio ormai stabile da tempo sui 40-45 dollari al barile ed un euro a 1,40 sul dollaro che in proporzione porterebbe il costo del barile sotto i 30 dollari, questi continuino a chiedere il Fuel Surcharge? E che dire delle compagnie petrolifere? Con questi prezzi del petrolio, la benzina dovrebbe stare ben al di sotto di un euro al litro. E invece tutti vediamo che non è così. Forse l'avidità non è solo dei paesi produttori che, dal canto loro, continuano a tagliare la produzione per cercare di far crescere il petrolio a prezzi assurdi, ma è cosa diffusa. E chi ci rimette, come al solito, siamo sempre noi, i consumatori. Quei poveri consumatori che tutti dicono di voler proteggere, ma che in realtà non vengono tutelati da nessuno. Credo che lo Stato farebbe bene a vigilare e controllare sull'andamento di questi prezzi, perché soprattutto in questi periodi difficili, risparmiare qualche euro sul pieno di carburante, che alla maggior parte delle persone serve soprattutto per recarsi al lavoro, pagare qualche balzello in meno sui biglietti dei mezzi di trasporto, farebbe comodo a tutti. Roberto Lecco. Ho la patente da 10 anni. Sono stato fermato 3 volte per accertamenti di polizia sulle strade. Ho fatto il test alcolemico 1 sola volta. Questo è il problema. Abbassare il limite a 0,2 significa sacrificare sull'altare della sicurezza il povero fesso che si è mangiato un Mon Cherie. Simone. Per colpa dei soliti noti, camionisti assonnati, ventenni viziati che guidano il Porsche del padre ed extracomunitari senza patente, che rappresentano il 5% dei mezzi circolanti, ci rimettiamo sempre noi, il solito ceto medio fatto da padri di famiglia e, in generale, da gente per bene, che magari qualche volta beve, che magari qualche volta sfora il limite di 10 km orari, ma mai si sognerebbe di gareggiare con altri o di andare a 100 all'ora in un centro urbano e mai si renderebbe responsabile di uno qualsiasi di quei comportamenti che causano le stragi sulle strade. Parafrasando Cesare Beccaria, che parlava del divieto ai comuni cittadini di portare armi, vietare ai buoni cittadini non serve a nulla, perché chi è un criminale non si spaventa per un semplice divieto. Vietare penalizza chi si comporta bene, senza scoraggiare chi non ha nulla da perdere e si comporterebbe egualmente in malo modo. Marcello, Roma. Si può ancora dire pane al pane e vino al vino, oppure se lo dico rischio di prendere una multa? Sempre più comico. Quelli che fanno i filotti con birilli umani non hanno certo un tasso alcolico fra gli 0,2 e 0,5. Sono strafatti e non dormono da giorni. Siamo in proibizionismo. Chi non può permettersi l'autista non può più portare la ragazza fuori a cena. Massimo. Ho vissuto in Norvegia. Lì vige un rispetto estremo del codice della strada. Chi trasgredisce è istantaneamente portato davanti al giudice e, se previsto un breve periodo di carcerazione, i giorni saranno quelli delle ferie, delle vacanze o i weekend. A mezzanotte il posto dove si trovano i liquori nei ristoranti, alberghi e discoteche viene lucchettato. Le persone, se sono impossibilitate perché hanno bevuto, ritornano a casa con i pullman o con i taxi. Le regole sono rispettate, cosa che non succede e non succederà mai in Italia con qualsiasi legge. I furbi faranno sempre i furbi. Andrea da Como. Si sa bene che il nuovo tasso limite per l'alcol è una presa in giro. O si mette il tasso a 0 o si lascia come ora, dato che è già basso. Il problema non è l'alcol, ma l'educazione stradale, che i genitori o le scuole non danno ai ragazzi. Un giovane arrapato al volante è molto più pericoloso di un alcolista in aereo. Bisogna educare all'uso della strada, non fare una legge che serve ai politici per dimostrare che hanno fatto qualcosa. I politici sanno cosa succede per strada. Credono veramente sia l'alcol a causare tutto. Piero. Non è necessario inasprire le pene per chi guida in stato di ebbrezza. È sufficiente fare più controlli. Io viaggio spesso e quando viaggio non bevo alcolici, anzi evito anche di fare pranzi. Preferisco più soste con spuntini. Ma la sera mi fermo al bar a prendere un aperitivo, moderatamente alcolico, prima di rientrare. E vorrei evitare problemi. Inoltre, l'effetto che si otterrebbe inasprendo le pene lo sappiamo già. Succederebbe quello che è successo con il casco. Le pene per chi non indossa il casco sono notevolmente aumentate, ma continuiamo a vedere motorini con 3 persone a bordo che passano vicino ai vigili, come avviene ad esempio a Napoli, senza che nessuno dica nulla. Da noi le multe le fanno, e fanno solo del male alla gente. Altro problema è che ci sono molti non italiani che, nel caso di ritiro patente, viaggiano con la patente internazionale rilasciata dal loro paese, ad esempio la Polonia. Questa restrizione riguarderebbe solo gli italiani, mentre gli stranieri, di fatto, avrebbero l'immunità. Per quanto riguarda la notte e i giovani, vanno bene certe limitazioni alla vendita di alcolici non eccessive. Ma perché non si limita alla potenza delle auto che si possono guidare fino a 25 anni? Saluti, Renzo. Io quando devo guidare non bevo, però uso spesso il propoli su base alcolica o altri prodotti naturali omeopatici che hanno una base alcolica. Se mi fermano, mi ritirano la patente. Andrea da Mestre. A proposito di Eluana, basta con questa storia infinita. Se il padre vuole farla morire, faccia come si fa con tutti i malati terminali. Se la porti a casa e poi faccia quello che vuole. Capisco il dramma della famiglia, ma la querela ormai è diventata ideologica. Personalmente sono contrario, anche per come la faranno morire. Ma sembra che, nonostante ogni giorno decine di giovani muoiano per motivi diversi, tutti siano interessati solo ad Eluana. Pierluigi. La Iervolino non è nuova ad uscite assurde o che negavano l'evidenza. Ne ricordo qualcuna. Non esiste allarme criminalità a Napoli. Se rubano gli orologi, daremo ai turisti orologi di plastica. Non esiste emergenza rifiuti. Quando era ministro degli esteri. Altro che respingere gli immigrati. Dovremmo andare a prenderli noi. Per quanto ancora dobbiamo vedercela calcare le scene. Stefano. Parlando di cose serie, la comunità europea boccia la settimana lavorativa di 65 ore, ma gli stati dell'Unione Europea hanno 3 anni per derogare. Peccato! Che bello sarebbe stato lavorare 5 giorni per 13 ore circa, o lavorare 6 giorni per 10,5 ore circa, o lavorare per 7 giorni per 9,5 ore circa. L'alternativa è fare un turno da 48 ore e poi un altro giorno da 17 ore o 2 giorni da 8. Così ci rimane un po' di tempo per dormire. Francesco. Si dice che il PD perderà sempre se non si libera dell'IDV. Quindi in Abruzzo ha perso per colpa di Di Pietro. Magari avrebbe potuto ricandidare Del Turco, così avrebbe vinto sicuramente. Il PD ha perso totalmente il contatto con la realtà. Vada pure avanti da solo, così in un annetto farà la fine della sinistra arcobaleno. Mauro. È curioso vedere come quando la magistratura indaga sulla politica si dica sempre che ingerisca nel potere politico. Io sarei più propenso a chiedermi come mai i politici diano così tanto lavoro alla magistratura. Nel 92-93 mezzo Parlamento si dimise solo per il fatto di essere indagato. Oggi invece, se sono condannati prima di essere eletti, hanno la strada spianata verso il Parlamento. Rudy, provincia di Treviso. Egregio direttore, le scrivo in qualità di pluriennale utente, viaggiatore, cliente di Trenitalia, o quel che ne rimane. In una linea di serie B, se non addirittura di serie C, la Milano-Porta Genova-Mortara-Alessandria. Una linea ferroviaria dimenticata, che non finisce mai agli onori delle cronache quando succede qualcosa. Immaginerà sicuramente lo stato in cui versano le linee di secondaria importanza, ma le garantisco che in questi ultimi mesi la situazione è al limite del sopportabile. L'ultimo di servizio giovedì mattina. Avendo un appuntamento di una certa importanza nel luogo in cui lavoro, decido di prendere non il treno prima, bensì 2 treni prima di quello che solitamente utilizzo per raggiungere Milano dalla stazione di Abbiategrasso, distanza ferroviaria 26 km più 195 metri. Almeno così dice il cartello scrostato dall'umidità apposto sul casello superstite nelle vicinanze della stazione. Prendo quindi il treno delle 7:17. Arrivando in stazione, mi accorgo che c'è un treno fermo stipato all'inverosimile, per non parlare della lordura delle pareti interne, esterne e dei sedili. Decido, malgrado tutto, di salire. ma è del tutto inutile. Il convoglio è inesorabilmente fermo. La voce dell'altoparlante gracchia qualcosa di italicamente incomprensibile. Il capotreno a passo veloce va verso la coda del treno ed esclama: «Non parte!» Qualcuno grida: «Diteci qualcosa, dateci qualche notizia!» Ma le notizie non arrivano e sono costretto ad emigrare verso la stazione di Magenta, sulla linea Milano-Torino. Detta linea non sarà perfetta, ma a parte una porta non funzionante e 10 minuti di ritardo, il treno arriva a destinazione, un treno perlomeno dignitoso. Costo e tempo dell'operazione. Viaggio con l'auto da Abbiategrasso a Magenta, 9 chilometri. Acquisto di un biglietto Magenta-Milano, 2,75 euro, perché l'abbonamento già in mio possesso e pagato non vale sull'altra tratta. In totale, 1 ora e 55 minuti per fare 26 chilometri, alla fantastica media di 13,7 chilometri ora. È lo stesso tempo che ci impiega il nuovo treno ad alta velocità per andare da Milano a Bologna e tornare indietro. È notizia di 2 giorni fa quella di un treno con a bordo 1 migliaio di pendolari sequestrati e dimenticato in mezzo alle campagne per 1 ora. E vogliamo ricordare 2 svenimenti nelle ultime 2 settimane a causa del sovraffollamento con relative ambulanze giunte in stazione? O ancora dell'occupazione dei binari nella stazione di Gaggiano da parte di un gruppo di pendolari esasperati della situazione? Di episodi così ne ho visti a bizzeffe da quando viaggio per lavoro. Oltretutto, i problemi che affliggono la Milano Mortara, Alessandria, sono sempre i soliti. Da anni, se non da decenni. Ma non se ne esce. Mi hanno insegnato che i problemi, nel limite delle possibilità umane e terrene, sono fatti per essere risolti, non per essere accantonati. Prima o poi i problemi si ripropongono e far funzionare una linea ferroviaria non credo sia un problema così insormontabile. Da considerare poi l'opinione ridicola e patetica di taluni dirigenti illuminati di Trenitalia, i quali sostengono che sì, effettivamente i disagi ci sono, tuttavia i costi degli abbonamenti sono molto al di sotto della media europea e non si può fare un'adeguata manutenzione del materiale rotabile e da qui nascono i guasti. Ma che discorsi sono? Primo, non è da oggi che questi problemi esistono e, nel tempo, non si sono visti interventi strutturati atti ad eliminarli. Secondo, credo che chi viaggia, soprattutto per lavoro, preferisca un allineamento del costo degli abbonamenti alla media europea e avere un servizio efficiente, piuttosto che pagare poco ed avere un servizio che fa schifo. È da qualche mese che sono in corso i lavori di realizzazione parziale del secondo binario. Capito? Il secondo binario e neanche per tutta la tratta, col quale, a detta di Trenitalia, i disagi diminuiranno. Proprio così, l'industrializzata ed efficiente Lombardia all'alba del 2009 deve fare ancora i conti con linee ferroviarie a binario unico, che dovrebbero avere il compito di trasporto regionale e o metropolitana. No, egregio direttore, così non si va da nessuna parte. È perfettamente inutile che ci chiedano di prendere i mezzi pubblici per evitare inquinamento, intasamento delle strade e via dicendo. La mia sensazione è che i pendolari siano inesorabilmente finiti nel dimenticatoio del dimenticatoio, a tal punto da invogliarli a prendere l'auto. Infine, mi rivolgo a lei, presidente Formigoni. Faccio appello alla sua sensibilità. Ritiri a Trenitalia la concessione del servizio trasporti regionale sulla mia linea e trovi un'altra soluzione per consentirci di raggiungere Milano in modo più dignitoso e meno disumano. Francamente, di un carrozzone come quello che una volta erano le ferrovie dello Stato, non sappiamo che farcene. Stefano, Abbiategrasso. Egregio direttore, vi ascolto abbastanza spesso e ho notato che nel corso di alcune vostre trasmissioni si sta tornando a chiedere con decisione l'abolizione delle province. Negli ultimi tempi anche il premier Berlusconi sembrerebbe essere tornato sulla questione. Ma non solo il presidente del Consiglio, perché in effetti la questione province è nel complesso abbastanza trasversale, se escludiamo il comprensibile irrigidimento da parte della Lega. A tal proposito, naturalmente se lo riterrà opportuno, la invito a prendere informazioni sulla costituzione della nuova provincia di Fermo nelle Marche. Le assicuro che ne trarrà alcuni spunti di interesse. Istituita con legge dello Stato numero 147/2004, vedrà la luce definitivamente nella primavera del 2009, quando andranno a costituirsi gli organi di amministrazione. Una volta definitivamente operativa, la provincia di Fermo consterà di 40 comuni, per un totale di circa 165.000 abitanti. Premetto che, a mio parere, le province non sono affatto inutili, perché ad esempio qui nelle Marche sono enti a strettissimo contatto con i cittadini, anche in virtù del fatto che gestiscono una serie considerevole di competenze che sono state loro demandate direttamente dalla regione. Ma al di là della mia personalissima opinione, che dice poco o nulla, mi chiedo per quale motivo, da un lato, queste tanto vituperate province vengano attaccate sempre di più e senza riserve, mentre dall'altro ne spuntino continuamente di nuove, come fossero funghi. Emanuele, Ascoli Piceno. Gentile Radio 24. Si continua a parlare di abolizione delle province, perché ritenute inutili e simbolo degli sprechi italici. Io sono dell'opinione che gli unici enti inutili siano le regioni. In fin dei conti, le regioni si occupano quasi unicamente di sanità, che dovrebbe essere una competenza nazionale, e sono distanti dai cittadini esattamente quanto le istituzioni nazionali a Roma. Le province, quelle storiche, evitiamo di parlare delle 25 costituende, hanno invece la giusta vicinanza al cittadino e hanno una forte valenza identitaria. Ognuno di noi si definisce milanese, romano o napoletano, non certo lombardo, laziale o campano. La dimensione regionale è assolutamente artificiale, non trova alcuna giustificazione. Porta invece seri problemi di vigilanza sulle istituzioni. Andando ad analizzare la copertura geografica dei mezzi di informazione locali, si può facilmente notare come questi abbiano in massima parte una dimensione provinciale. Ciò pone l'istituzione regionale sostanzialmente in un cono d'ombra informativo che poco si addice a uno Stato democratico. A pensar male, si potrebbe affermare che questo sia proprio l'effetto desiderato dalla casta politica che ci governa. Luca. Caro Luca, quando si parla di abolizione delle province, ipotesi che mi trova largamente favorevole, non si parla certo di cancellare le province dalla carta geografica o di sopprimere l'identità territoriale. Il problema è quello di abolire un livello di governo politico, non certo una funzione o una responsabilità amministrativa. Vede Luca, le province hanno molte competenze, anche importanti, dalla manutenzione delle scuole ai controlli ambientali, ma si tratta di competenze che potrebbero continuare a essere svolte da uffici provinciali sotto il controllo politico delle regioni. Si tratterebbe quindi soprattutto di abolire il livello politico, i presidenti, le giunte, i consigli provinciali, che sono soprattutto dei centri di spesa e di ricerca di consenso a livello locale. Le scuole e le strade non sono né di destra né di sinistra e per la loro manutenzione non c'è bisogno, mi creda, di sovrastrutture politiche particolari. Abolire le amministrazioni provinciali sarebbe quindi un passo avanti nella semplificazione e nella riduzione dei costi della politica. E sarebbe anche un'operazione senza eccessive ripercussioni, perché non sarebbe in discussione nessun posto di lavoro dei funzionari provinciali. E se invece abolissimo le regioni, mi chiederei, siamo realisti, mi sembra francamente una proposta di attuazione molto più complessa e quindi fuori tempo. Le regioni hanno ormai competenze vaste e diffuse. Si può forse dire storicamente che aveva qualche ragione chi si opponeva alla loro istituzione, ma le lancette della storia camminano solo in avanti. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.